America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. This is a time when we're being hollowed out by China that is artificially holding down their prices, as you just said a moment ago, and that's having a massive impact on jobs here. Mitt Romney è emerso di nuovo ieri notte durante il dibattito sull'economia con i suoi concorrenti repubblicani come il candidato più autorevole. Direi che a questo punto la corona di potenziale nominee, di potenziale candidato ufficiale per la corsa contro Barack Obama del 2012 è di fatto assicurata. Ecco, bisogna capire a questo punto, e non è un problema secondario, se non sia troppo presto. Mitt Romney difende il suo progetto per la riforma sanitaria, era stato molto attaccato su questo fronte, si diceva che Barack Obama si era ispirato a lui e che questo piano era un disastro, dunque una componente di debolezza nel programma di Romney, ma Romney lo ha difeso fino in fondo ed ha anche difeso l'intervento delle autorità per salvare il sistema bancario dopo la crisi del 2008. Il rischio, ha detto, era che i risparmi di tutti gli americani potessero volatilizzarsi. Ecco, questo è un altro punto delicato. I conservatori non si trovano d'accordo con Romney su questo, ma Romney va avanti per la sua strada. Il suo grande punto di forza di ieri notte è stato quello di aver ottenuto, pensate, l'endorsement, l'approvazione, l'appoggio di Chris Christie, il governatore del New Jersey, che sembrava essere il candidato più forte insieme a lui per una possibile nomination e che poi si è ritirato, annunciato che non avrebbe partecipato alla corsa la settimana scorsa. È stato quello uno dei momenti di svolta, perché con l'uscita di Christie Romney restava da solo in testa. Adesso, con straordinario anticipo, di nuovo ottiene l'appoggio di Chris Christie. Questo appoggio è arrivato subito prima del dibattito sull'economia e in qualche modo ha colto in contropiede Rick Perry, il governatore del Texas, che si voleva invece preparare a un attacco violento, duro, contro Mitt Romney, ormai sempre più candidato di testa. C'è da chiedersi a questo punto se per Romney non sia troppo presto, cioè in fondo siamo ancora ad alcuni mesi dalle primarie, dal voto, e Romney si trova già davanti a tutti. Un altro candidato emerso piuttosto bene ieri notte è stato Herman Cain, il candidato afroamericano. Pensate, si sta già parlando di lui come un possibile compagno di corsa di Mitt Romney. Ecco, tutto questo ha creato una riflessione fra gli osservatori americani, cioè ci si domanda, come vi dicevo prima, se Romney non stia correndo troppo forte, se a questo punto il suo problema non sia quello di gestire questa sua forza di immagine da qui alle prossime elezioni, perché in pochi mesi, sappiamo, può succedere di tutto. Ed è questa la scelta di Perry. Ieri notte non ha attaccato proprio perché si è reso conto di essere in una posizione debole dopo l'endorsement di Chris Christie per Romney e ha deciso di rimandare il suo attacco al medio termine. Credo che ci vorrà qualche settimana. Ultimately, our recovery will be driven not by Washington, but by our businesses and our workers. But we can help. We can make a difference. Barack Obama, lo avete sentito, il presidente americano, parlava del suo progetto per rilanciare l'occupazione. Ebbene, questo progetto è stato bocciato ieri al Senato. Sul fronte economico, dunque, un'altra notizia non necessariamente rassicurante: l'economia americana non cresce, c'è bisogno di un forte aiuto dal punto di vista degli stimoli, questo progetto poteva in effetti servire. Ebbene, il Senato al voto ieri ha passato questo progetto soltanto con 50 voti su 49, ce ne volevano 60 per poter superare le eventuali obiezioni procedurali. E attenzione, questo era un voto soltanto per cominciare il dibattito sul progetto di legge, non era un voto sul progetto di legge, ma la mia impressione è che qui ci sia un po' un minuetto politico. Barack Obama si rendeva conto che in questa forma il progetto non sarebbe andato da nessuna parte, i repubblicani lo avevano già fatto capire, il mercato secondo me non reagirà in modo particolare a questa notizia e in realtà il voto di ieri consente a questo punto a Barack Obama di poter rimettere mano sul pacchetto senza perdere la faccia, di spaccarlo in due pacchetti di legge diversi e di sperare così di poter finalmente ottenere un successo politico. Certo è che da una parte abbiamo visto Mitt Romney che avanza lungo la strada della nomination, dall'altra vediamo Barack Obama in difficoltà persino al Senato controllato dai democratici. Un'altra notizia di un certo interesse che abbiamo avuto ieri da Washington riguarda un rocambolesco tentativo da parte dell'Iran di assassinare l'ambasciatore dell'Arabia Saudita a Washington. Tra l'altro sembra che gli agenti segreti iraniani si fossero messi d'accordo con il narcotraffico messicano. Dunque, da una parte abbiamo questa componente così da film giallo, dall'altra però c'è un importante significato politico di questa rivelazione cioè lo sapevamo già, l'Iran e l'Arabia Saudita sono ai ferri corti per varie ragioni. Una di queste riguarda il tentativo iraniano di fomentare la rivolta, che dovrebbe essere una rivolta da primavera araba, in Bahrain, un piccolo stato, una piccola nazione vicinissima all'Arabia Saudita, perché ritiene di poter poi far leva sulla maggioranza della popolazione sciita e cominciare a portare la rivoluzione iraniana, la rivoluzione sciita, proprio nel fianco vicino all'Arabia Saudita. Questo a Riyadh naturalmente non piace, il conflitto medio orientale si gioca su molti livelli, noi siamo abituati a seguire soprattutto quello fra israeliani e palestinesi, la realtà è che dietro il conflitto fra Israele e Palestina vi sono, come vi dicevo, molti altri strati e quello fra l'Iran e l'Arabia Saudita è sicuramente uno di quelli che preoccupa di più. Per ora l'attentato è stato sventato, ma a questo punto sappiamo in modo ancora più concreto quanto alto sia il filo della tensione fra questi due paesi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Vi ho parlato prima di economia, il dibattito economico fra i repubblicani, il presidente Barack Obama sconfitto al Senato sul piano di rilancio. Ebbene, a Wall Street continua la protesta, continua ad attirare sostenitori anche tra i VIP. Ebbene, l'ultimo a fare la sua apparizione con Occupy Wall Street è stato ieri il rapper Kanye West, uno dei musicisti più celebri in America di questo momento. E dunque alla protesta e a Kanye West dedichiamo la canzone di oggi, Why I Love You. You if you will that the thorns burning, groans burning, and I'm sitting in the corner all alone burning. Why does it always end up like this? Something that we don't determine. Same people that I fought for, that I fight for, that I ride for, that I live for, that I die for. Be the reason that these niggas is alive for, and they want me dead. I'm sorry, but I just can't die for you. But I can make them put their hands in the sky for you. We wait for the fireworks like July 4. Get fly more, get high more. Cry more, why for? When the grief is over, beef is over. I'll be fly when East is over. I try to teach niggas how to be kings, and all they ever wanted to be was soldiers. So the love is gone, the blood is strong, 'cause we no longer wear the same uniform. Fuck you squares, the circle got smaller, the castle got bigger, the walls got taller. And truth be told, after all that said, niggas still got love for you. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!